hace como la transición. Yo te igual. Encuartando la mitad tuba. Y te corto con flato Sogni primogenito, boombox, dove cazzo siete? Sto ancora aspettando un dissing. Se non disturbassi i miei passi in terra battuta, merda, non parlassi di me, faresti scena, mute e passi. Che dici a gente che mi scassi? Vengo a mente i fatti. Vieni a cena con gli squali e fate gli antipasti. Spero ti basti, perché a me non basta. Sfondo i bassi, lancio sassi e lascio rapper stesi come panni. Ti credi Bunny Rabbit? Li ho portato a fare danni come Funny Games, tu come Funny Gay. Chi comanda Fossano con ogni metro? Resti fuori dalla scena come dentro una campana a vetro, tipo in campana e tetro. Hai già perso penne, io non c'entro il commercio. Commerciale tu, commerciale al Bennett, puro sangue rapper come Varenne. Tu sei un pony express, tra chi conta e tra chi spacca test. Sono la peste, contagio gente alle feste. Resto a mio agio, perco ogni mio testo, un best seller. Viene alle mani, cerco preteste, moni fra testimoni. Più mi detesti e più muori. Sono questi, sono gli stesse generazioni. Mi trovi ad alzare i toni per fare a pezzi coglioni. Viene alle mani, cerco preteste, moni fra testimoni. Più mi detesti e più muori. Sono questi, sono gli stesse generazioni. Mi trovi ad alzare i toni per fare a pezzi coglioni. Sonny, do it better, non ho mai letto L. Ma nel mio letto sotto le coperte ho sempre quattro ancelle. Sotto pelle Sicilia e Sardegna, sangue misto. Io non sono un signore, ma tu non sei nessuno, Cristo. C'ho già abbastanza rogno, ho fatto già abbastanza fogne. Non nessuno è stato come in quella stanza. Con la fattanza toglie tutta la distanza. Forse cambi sembianze per una notte. Credi di essere abbastanza forte. Pecora nera di un gregge, questo amico non regge. Questo non seguo legge, vesto perfetto, tipo chi ti protegge. Adesso giro con gente, cerco chi mi protegge da me stesso. Spesso parli di Barbie e come che non immagini il pacco. Parli di me son matto, ma non ti immagini quanto. Con il tuo branco di bambini, pompini col guanto. Siete abbastanza per un'orgia, pochi per sto cazzo. Viene alle mani, cerco preteste, moni fra testimoni. Più mi detesti e più muori. Sono questi, sono gli stesse generazioni. Mi trovi ad alzare i toni per fare a pezzi coglioni. Viene alle mani, cerco pretesti e moni fra testimoni. Più mi detesti e più muori. Sono questi, sono gli stesse generazioni. Mi trovi ad alzare i toni per fare a pezzi coglioni. A guardare YouTube, Fossano, terra di jumpers, terra di stuntman, distante dal rap. Niente stampe su di me su Piazza Grande. Per i giornalisti non sono mai stato un tipo interessante. Le ragazze sono interessate anche se fan le sante. Le mamme sono preoccupate per queste ragazze. Ho lo stesso peso di un armadio a quattro ante. Non posso fare una rima che il clima si fa pesante. Il mondo è tutto finto come Paris Hilton, tipo un film di Tinto Brass. Censura dipinto dei mass media, mass sfida. Cerchi la figa, sei nata come la masnada alla corrida. Bastata mezza rima per occhi di sfida. Leggi tarocchi di stima, ti stavo prima, già prima della pina. Asci in cantina, non giri in pashmina. Più in guerra di Hamas, bambina, merda la tua rovina. Viene alle mani, cerco preteste, moni fra testimoni. Più mi detesti e più muori. Sono questi, sono gli stesse generazioni. Mi trovi ad alzare i toni per fare a pezzi coglioni. Viene alle mani, cerco preteste e moni fra testimoni. Più mi detesti e più muori. Sono questi, sono gli stesse generazioni. Mi trovi ad alzare i toni per fare a pezzi coglioni. Ma che è sta applauso? Qua stiamo parlando di cose serie. Che sogno, Mike, buongiorno. Quando si tratta di ammazzare Cristiano, non si applauso.